Cimabue e il bambino. Per le campagne del Mugello, nei pressi di Firenze, passeggiava un giorno il pittore Cimabue. Mentre passava accanto a un pascolo, vide su una larga pietra chiara, al bordo della stradina, il disegno di un albero così semplice e ben fatto da lasciarlo a bocca aperta per lo stupore. Cimabue guardò attorno e non vide nessuno, tranne un pastorello che sorvegliava un gregge di pecore. Poco più avanti, ecco un'altra pietra chiara, con il disegno di un uccello in volo. Incuriosito, Cimabue si chinò a guardare da vicino il disegno e annuiva lentamente con la testa. Siccome era ora di tornare, voltò il passo e riprese la strada. Il pastorello era ancora nel pascolo. Cimabue si fermò e chiese: Bambino, sai come si chiama e dove abita il pittore che ha fatto i disegni sulle pietre? Vuoi dire quell'uccello lassù e quell'albero laggiù, signore? Proprio quelli. E ce ne sono altri di disegni, lo sai? Allegramente il piccolo. Vicino alla quercia, là sopra c'è il disegno di un bue, e poi nel bosco, su una roccia grande, c'è quello di due caprioli. Ah, bene, disse Cimabue, ma dove abita il pittore che li ha disegnati? Non c'è nessun pittore, rispose il bambino. E chi ha fatto i disegni allora? Io! Cimabue corrugò la fronte. Non raccontarmi bugie, piccolo, disse. Nessun bambino sa disegnare un uccello come quello. Il bambino, senza parlare, prese un bastoncino dalla punta bruciacchiata, sedette davanti a una pietra e, guardando ogni tanto una pecora che brucava lì vicino, cominciò a disegnare. In pochi minuti la pecora era sulla pietra, ferma, ma sembrava viva. Qual è il tuo nome, piccolo? Disse allora Cimabue con voce commossa. Mi chiamo Giotto, signore. Allora Cimabue andò al paese e cercò il padre del bambino, che si chiamava Bondone, e tanto disse che lo convinse a lasciare andare Giotto a Firenze a lavorare nella sua bottega di pittura. E Giotto andò e diventò il miglior pittore del suo tempo, e di lui si parla ancora oggi.